We have had some technical problems. Hit it! 2 0 2 4 2024. In questa puntata di 2024. Internet, smartphone e viaggi. Quanto cresce il mercato del Travel 2.0? L'organizzazione delle vacanze via web e come si comporta l'Italia? Il 40% l'ha usato per cercare posti e consultare mappe. Il 32% l'ha usato per prendere ulteriori informazioni sul viaggio anche tramite le applicazioni. E addirittura il 28% va sui siti di hotel e ristoranti per prendere ulteriori informazioni. Questo del turismo online è uno dei pochi ambiti in cui mediamente le istituzioni pubbliche fanno molto meglio degli operatori privati. E poi parleremo del mercato della telefonia mobile, tutte le novità e gli scenari che si aprono dopo il Mobile Congress di Barcellona. Abbiamo finalmente visto una fiera viva, vivace, con tanta gente, con gli espositori che sorridevano. Sembra davvero di essere ritornati a 3 anni fa, prima della crisi economica. Ci sarà anche la nostra rubrica dedicata ai videogiochi e quella in collaborazione con National Geographic. Oggi parleremo di elicotteri. In questo settore ci si sta concentrando, diciamo, su due filoni. Il primo è quello dell'interfaccia uomo-macchina. Dall'altro lato invece si lavora molto sull'aerodinamica, perché il grande limite dell'elicottero è la velocità, che lo rende poco competitivo rispetto all'aeroplano. 2024 di Enrico Pagliarini. Oggi siamo in diretta dalla BIT, Borsa Internazionale del Turismo, a Milano, alla Fiera di Milano. Bentornati a 2024, il programma che vi racconta come la tecnologia cambia la vita, ci cambia la vita. Oggi avete sentito dal nostro sommario, ci occuperemo in modo particolare di telefonia mobile, visto che a proposito di fiere se ne è appena conclusa una a Barcellona, cioè l'appuntamento più importante al mondo per la telefonia mobile, che oramai chiamarla così è un po' riduttivo. Sarà con noi Massimo Morandi, ma adesso iniziamo giocando con Stefano Gallarini. Video game. Eccomi pronto con un nuovo appuntamento dedicato come sempre ai videogiochi, e all'inizio di ogni puntata sapete che vi svelo la soluzione del gioco della settimana scorsa. Per sconfiggere il mostro di fine livello dovete come al solito risolvere i primi due livelli, ed ecco le risposte della settimana scorsa. Livello 1. È la quarta su 7. La risposta era fa. Livello 2. Il fratello della mamma. La risposta era zio. Così, mettendo insieme le due parole, si ottiene Fazio. Il mostro di fine livello chiedeva: mostro di fine livello, qual è il suo ministero? La risposta era ovviamente sanità, ovvero il ministero di Ferruccio Fazio. Complimenti a Matteo di Milano, che si porta così a casa il sensore Kinect e due giochi, tutto rigorosamente firmato Microsoft. Veniamo quindi al gioco di questa settimana, e come sempre dovrete risolvere i due livelli per sconfiggere il mostro di fine livello e avere la soluzione da inviare a videogiochi@radio24.it. In premio anche questa settimana il sensore Kinect e due giochi Microsoft per Xbox 360. Livello 1. Per gli inglesi significa per. Nella puntata di oggi parliamo di un classico dei videogiochi, il beat 'em up, che tradotto sta più o meno per picchiaduro. Marvel vs. Capcom 3. Fate of two worlds. Normal. Era il 1987 quando Capcom realizzò per le sale giochi un titolo che avrebbe segnato per sempre l'universo dei picchiaduro, ovvero di quei giochi dove per battere l'avversario è necessario premere tasti e muovere il joystick velocemente per fare sì che il vostro personaggio sferri calci e pugni all'avversario per stenderlo a terra. Il gioco si intitolava Street Fighter. Mario! La grafica era bidimensionale, con i combattenti visti di profilo e i suoni, quelli che avete appena sentito. Ma la grande quantità di mosse disponibili e la possibilità di battersi contro tutti gli avversari, cominciando da quelli più semplici fino ad arrivare a quelli più temibili, hanno fatto la fortuna del videogioco e anche del genere picchiaduro. Malgrado il genere non sia proprio uno di quelli da videogioco colto, anche Street Fighter aveva la sua trama. Il protagonista, Ryu, doveva viaggiare fra Giappone, Stati Uniti, Inghilterra, Cina e Thailandia per sconfiggere gli assassini del suo maestro Gouken. Ma veniamo ai giorni nostri per parlare del nuovo Street Fighter. Ma prima, la seconda parte del nostro gioco. Livello 2. Il mese della mamma. Ecco, ora possiamo tornare a picchiare duro con Marvel vs. Capcom 3 Fate of Two Worlds, ovvero il destino di due mondi. In questo picchiaduro a scontrarsi saranno 19 protagonisti dei giochi Capcom, come per esempio il famoso Ryu di Street Fighter del quale abbiamo parlato, con altrettanti protagonisti dei fumetti Marvel. Da Spider-Man, che per balzare dietro i suoi avversari userà la tela di ragno, a Hulk, che fa della sua massa verde il suo punto di forza. Poiché molti appassionati di videogiochi sono anche divoratori di fumetti, l'unione fra i protagonisti dei due mondi ha avuto un grandissimo successo di vendite. E in questo terzo titolo della serie, Marvel vs. Capcom 3, il destino di due mondi, la grafica bidimensionale che strizza l'occhio al mondo dei fumetti, unita alle capacità tecniche delle nuove console, fanno sì che il gusto di combattere senza sosta sia ancora più forte. Questo genere di giochi, fra l'altro, piace molto anche alle ragazze e potrà essere affrontato dai possessori di Xbox 360 e da quelli di PlayStation 3. Capcom presents Marvel Comics. E prima di passare alla classifica dei giochi più venduti della settimana, ecco la terza parte del nostro gioco, il mostro di fine livello da sconfiggere con la risposta giusta alla domanda che sto per farvi. Chi invierà la risposta corretta per primo si porterà a casa il sensore Kinect con Kinect Adventures e un altro gioco per Kinect offerti da Microsoft. La risposta a videogiochi@radio24.it. Mostro di fine livello. Ne va chiotto. E adesso la classifica. Quinto posto per un gioco che unisce amici e famiglia in una festa del divertimento, Wii Party. Al quarto posto resiste in classifica la voglia di mettersi in forma e di riprendere tono con Wii Fit Plus e la Balance Board, esclusivamente per la console Nintendo Wii. Al terzo posto l'Odissea nello spazio di Isaac Clarke, alle prese con i necromorfi in Dead Space 2. Al secondo posto si balla con l'aiuto della Nintendo Wii con Just Dance 2. E al primo posto ancora la piattaforma Wii con l'idraulico Mario, alle prese con pallavolo, basket, dodgeball e hockey in Mario Sport Mix. Al prossimo sabato, un saluto da Stefano Gallarini. Sono le 15.40 in diretta dalla Bit, questa è 2024, siete all'ascolto di Radio 24. Oggi, come vi dicevo, ci occupiamo di telefonia mobile. Si è conclusa da pochi giorni, giovedì, mentre iniziava qui a Milano la Fiera Internazionale del Turismo, la Bit dove ci troviamo, dicevo, si è conclusa la fiera più importante del mondo della telefonia mobile. Saluto Massimo Morandi, direttore di Cellular Magazine e anche di Smartphone Magazine, che è appena tornato, giusto? Giusto, ciao Enrico, un saluto a tutti. Fiera incredibile, molto importante. La fiera più importante del mondo della tecnologia mobile ed è stata l'edizione più importante tra quelle che abbiamo visto fino ad oggi. La più importante, la più grande e quella di maggiore successo. Allora, se volete parlare con noi di telefonia mobile, chiamateci al nostro numero verde 824 0024. Potete anche inviarci un SMS al 349 238 6666 oppure, cosa che ci piace anche, vedere le vostre email. Scriveteci a 2024@radio24.it. Partiamo però dal turismo, visto che ci troviamo alla Fiera del Turismo a Milano. Molti di voi conosceranno il cosiddetto Travel 2.0, il Turismo 2.0, che da tempo ha rivoluzionato il modo di organizzare i propri viaggi, le proprie vacanze, prenotare voli, alberghi, pianificare itinerari, vedere addirittura i luoghi dove andremo in in vacanza. Queste cose si fanno molto con il computer, ma il superamento delle vendite di smartphone rispetto ai PC, cosa che è accaduta nell'ultimo trimestre del 2010, cioè si vendono più smartphone rispetto a computer, ecco, questo fatto creerà sicuramente un allargamento di queste attività. L'Italia in generale, a proposito di tecnologia, internet, telefonia mobile e turismo, come è messa, come si sta comportando? Ne abbiamo parlato con Rodolfo Baggio, che è docente al Master di Economia e Turismo all'Università Bocconi, che ieri ha presentato proprio qui alla BIT Internet e Turismo 2.0, scritto insieme a Magda Antonioli Corigliano. L'Italia ha due caratteristiche rispetto ad altri paesi. Uno è che questo del turismo online è uno dei pochi ambiti in cui mediamente, ovviamente ci sono delle eccezioni, le istituzioni pubbliche fanno molto meglio degli operatori privati. A me fa molto, sempre molto piacere ricordarlo, però è un'anomalia rispetto ad altri paesi. Anche nelle istituzioni pubbliche ovviamente ci sono delle differenze. Noi abbiamo appena finito degli studi, in parte i risultati sono pubblicati anche sul libro, di confronto non solo di quelle che sono le realizzazioni online, per esempio delle regioni italiane quando si parla di turismo, ma anche di quello che queste regioni per esempio dichiarano nei loro piani triennali, nei loro piani strategici e così via. Ne viene fuori un panorama abbastanza frammentato, vengono fuori alcuni casi di eccellenza. Che sono? I soliti quattro, per esempio, sono Toscana, Emilia Romagna, Trentino, Veneto, sono regioni che fanno molto bene, sia dal punto di vista di chiarezza di idee strategiche su come sviluppare strumenti di questo tipo, sia dal punto di vista di realizzazione. Direi che i risultati poi si vedono. La Toscana, che è forse la più attiva in questo momento, è una delle regioni dove non ci sono state, che è un grande successo in periodi di questo tipo, grosse perdite dal punto di vista di arrivi e di presenza turistica. Questo significa che queste regioni sono riuscite a creare, al di là del portale che dovrebbe oramai essere, ma dovrebbe, uso il condizionale, dovrebbe esistere per ogni regione o comunque per ogni proposta turistica, sono riuscite anche a catalizzare gli operatori, ad esempio attraverso un portale unico di prenotazione, eccetera, eccetera? Purtroppo questo no. Queste regioni, soprattutto Toscana e Emilia-Romagna, hanno anche sviluppato degli strumenti che dovrebbero essere pane quotidiano per gli operatori turistici. Toscana ha sviluppato degli strumenti per la vendita e la prenotazione online che sono, che mi risulti, totalmente gratuiti per gli operatori e, sempre che mi risulti, praticamente non utilizzati, che mi sembra strano, perché avere strumenti di questo tipo a disposizione e non utilizzarli mi sembra. Il rapporto con gli operatori da parte delle istituzioni è, ahimè, ancora molto difficile. Un operatore che ci sta ascoltando e si domandasse: ma come si dovrebbe fare, come dovrei fare, cosa dovrei fare? Allora, alcuni esempi o italiani o meglio internazionali da osservare, da tenere sotto controllo. Beh, quelli che ho già citato prima per l'Italia, ci sono molti paesi che fanno molto bene da questo punto di vista. Uno è la Svizzera, per esempio, in parte anche l'Austria, all'avanguardia dal punto di vista dell'utilizzo integrato di tecnologie in questo modo sono Canada, sono Nuova Zelanda, sono l'Australia. Dal punto di vista di contenuti, di qualità, di idee, eccetera, sono sicuramente luoghi da tenere sotto controllo. Questo è 2024 in diretta dalla BIT di Milano. Ci risentiamo tra un minuto. Oggi è 2024, parliamo di turismo, anche perché oramai lo smartphone, come abbiamo detto, viene utilizzato anche mentre siamo in vacanza o per pianificare la nostra vacanza, ma vogliamo allargare lo sguardo a tutto il mondo della telefonia mobile, visto che da pochi giorni si è concluso l'appuntamento più importante al mondo per tutti gli strumenti mobili. Oramai dobbiamo aggiungere agli smartphone anche i tablet. Saluto nuovamente Massimo Morandi, il nostro esperto di telefonia mobile. Bentornato a 2024, Massimo, ciao. Ciao. Enrico, grazie. Dunque, dicevamo della fiera, abbiamo detto che è stata una fiera molto importante quella di quest'anno. Vorrei aggiungere un particolare importante, visto che ci troviamo all'interno della fiera di Milano, uno dei più grandi centri fieristici del mondo e il più importante in Europa. Milano sta cercando di ottenere il Mobile World Congress, che si teneva una volta a Nizza, poi con l'esplosione del fenomeno della telefonia mobile si è spostato a Barcellona, che devo dire che è una località molto ospitale per le fiere e anche per tutte le persone che vanno a queste fiere. Stiamo parlando di fiere fondamentalmente business, così come del resto è la BIT, che prevalentemente si presenta e si offre agli operatori del settore, anche se in questo weekend, lo ricordiamo, è aperta a tutti i consumatori che possono venire qua e scegliere una vacanza. Dicevo, Milano sta cercando di entrare, cioè è entrata nella shortlist per ottenere il Mobile Congress dei prossimi anni. Sì, perché nel 2012 si terrà l'ultima edizione a Barcellona. Dopodiché la GSM Association ha ritenuto opportuno indire un bando di gara per cercare di portare lo show in un'altra grande città. Naturalmente c'erano 30 città che hanno partecipato a questo bando. Pochi giorni fa sono state annunciate 6 finaliste e durante il Mobile World Congress di questi giorni le 4 finaliste, dalle quali poi uscirà la città che ospiterà il Mobile World Congress, sono Parigi, Monaco di Baviera, la stessa Barcellona che naturalmente si ricandida, e Milano. Questa è la notizia molto importante. Cosa succederà? È molto difficile da prevedere, perché naturalmente a Barcellona c'erano tutte le delegazioni politiche, c'era la delegazione di Fiera Congressi per Milano. Tutto si giocherà nei prossimi mesi. L'annuncio della città che ospiterà dal 2013 al 2017 la Fiera, il Mobile World Congress, ci sarà entro il 2011, quindi a questo punto il terreno è naturalmente politico ed economico. Ma la cosa interessante è che la GSMA Association vuole trasformare un po' questa fiera, cioè renderla un po' come a Milano viviamo il Salone del Mobile, con un grande evento in una grande struttura, ma tanti piccoli eventi in tutta la città, non solo nel periodo di durata della fiera, nella 4 giorni fieristica, ma anche durante tutto l'anno, in modo che ci siano tanti eventi prodromici al grande evento. Ottimo, questo è importante, l'abbiamo detto, perché stiamo parlando di fatto anche del sistema paese, della competitività del paese, e sarebbe importante in un paese come l'Italia, che ha una quantità, una penetrazione di telefonia mobile tra le più elevate al mondo, sarebbe importante avere la fiera di riferimento della telefonia mobile. Quindi l'abbiamo voluto ricordare perché non è solo una faccenda da addetti ai lavori. Tornando al Mobile World Congress, voi, non so se l'avete fatto scrivendolo proprio o online o sulle vostre riviste, però tu mi dicevi che una vostra idea di titolo era Android Congress, sì. Per quale motivo? Sicuramente noi titoleremo lo speciale che uscirà sul prossimo numero di Cellular Magazine Android Mobile Congress, perché in realtà è stata la fiera che ha consacrato Android come sistema operativo principe su smartphone, tablet e su tutti i dispositivi mobili. Naturalmente c'è una battaglia delle piattaforme, tante aziende continuano a dirci oggi il consumatore sceglie un telefonino, sceglie uno smartphone, e facendo questo però è cosciente di scegliere anche una piattaforma da cui poi attingerà servizi e naturalmente tante altre cose tipiche della piattaforma. Oggi se si guarda al Mobile World Congress potrebbe venire la tentazione di pensare che Android abbia già sbaragliato e conquistato comunque grande parte di mercato, e i numeri dicono questo. In realtà poi vedremo che non è proprio così, perché nei prossimi mesi ci sono altri sistemi operativi, ci sono Windows Phone 7 di Microsoft che marcherà molto da vicino Android, e altre piattaforme che sicuramente non sono morte. Ecco, ricordiamo che tra le piattaforme naturalmente c'è la Apple con iPhone, con iOS, anche se spesso non viene citato il sistema operativo. Citiamo anche la nuova piattaforma lanciata da HP, che si è comprata la Palm e ha messo un piede nel mercato, che è importante. Sì, è vero, tra l'altro hai citato iPhone, Apple non fa fiere come ben sappiamo, quindi a Barcellona non era presente, ma come molti hanno sottolineato Apple non era presente fisicamente, ma era presente ovunque negli stand perché comunque il paragone è stato continuo. Dunque, vi ricordo che se volete chiamarci, il nostro numero verde è 800 24 00 24. Se volete inviarci un sms, a proposito di telefonia mobile, 349 238 6666. Oggi possiamo rispondere praticamente a tutto quello che riguarda il mondo della telefonia mobile. Più tardi avremo anche un ospite che molti degli ascoltatori di 2024 conoscono, Carolina Milanese, che è responsabile della divisione chiamata Mobile Devices, cioè tutti gli strumenti che in qualche modo hanno a che fare con il mondo della telefonia mobile, quindi non solo i telefonini, gli smartphone, ma anche i tablet, che ci darà uno sguardo anche sui numeri per dare una dimensione al mercato. Ma a proposito di numeri, quante persone ad esempio utilizzano la tecnologia internet, ma sempre più anche gli smartphone, per crearsi una vacanza, per girare, per passeggiare per l'Italia? Federico Capecci, amministratore delegato di 2.0 Research, ci dà qualche numero in più. Ma dalla ricerca emerge molto chiaro come oggi la tecnologia di connessione in generale, e in particolare il cellulare, oltre a consentire di comunicare in mobilità fuori casa, forniscono strumenti e direi anche stimoli per organizzare e vivere la vacanza. Il 78% di chi ha fatto una vacanza di 7 giorni nell'ultimo anno ha organizzato una vacanza da solo, e quindi questi strumenti forniscono la possibilità di organizzare in perfetta autonomia la vacanza stessa. E lo fanno contattando la struttura appunto direttamente tramite email da PC, 66%, ma anche tramite il cellulare, ancora una volta nella doppia forma di comunicazione via telefonato e anche via email. A proposito invece di strumenti più evoluti, quindi gli smartphone, che cosa ci si fa, sempre pensando alla vacanza nella fase di organizzazione, ma anche nella fase di vacanza vera e propria? Molti dei possessori degli smartphone chiaramente continuano a usare lo smartphone stesso durante la vacanza. Il 40% l'ha usato per cercare posti e consultare mappe, quindi la vecchia cartina, insomma. Il 32% l'ha usato per prendere ulteriori informazioni sul viaggio anche tramite le applicazioni, e qui è il concetto più di guida, e addirittura il 28% va sui siti di hotel e ristoranti che aveva anche prima contattato per verificare la disponibilità, per prendere ulteriori informazioni. Quello che emerge da questa ultima ricerca molto interessante è, se volete, proprio la massima espressione del concetto di smartphone come anello di convergenza tra la ricchezza del web e le esigenze in mobilità. Sono oggi circa 800.000 gli italiani che utilizzano lo smartphone per continuare a organizzare la vacanza proprio in itinere, il tragitto che stanno facendo proprio durante la vacanza stessa. Alcuni esperti, ma io stesso, sostengono che uno dei prossimi step per coniugare telefonia mobile, smartphone e vacanze, turismo, il mondo dell'arte, sia quello della cosiddetta augmented reality, cioè la realtà aumentata. Massimo, che cos'è? Che cosa significa? Dunque, significa aggiungere alla realtà che vediamo con i nostri occhi in diretta, a quella che sentiamo con le nostre orecchie, a quella che possiamo toccare con le mani, altri livelli informativi virtuali attraverso dei software e naturalmente attraverso dei dispositivi mobili, perché viene meglio. Con la videocamera di un telefonino, ad esempio, noi possiamo inquadrare una statua, un luogo, una piazza, un luogo di interesse, e leggere sul display delle scritte che sono fortemente informative del luogo in cui ci troviamo. Meglio se il dispositivo ha, oltre una videocamera, anche un GPS e una connettività, una connessione a internet, perché in questo caso ci potrà dare informazioni sul luogo in cui ci troviamo. Io consiglio a chi non ha mai avuto un'esperienza di augmented reality di scaricare il software LiAR, scritto con la Y, www.liar.com, e provarlo con lo smartphone, perché comunque è anche un'esperienza intelligente oltre che tecnologica. Bene, riparliamo tra poco dopo le notizie di GR24, magari in futuro avremo anche un'applicazione. Qua poi tocchiamo anche la privacy. Io metto il telefonino davanti a Massimo Morandi e sul display mi viene scritto: questo è Massimo Morandi, se io non lo conosco. Ci risentiamo tra qualche minuto dopo le notizie di GR24. Riprendiamo questa puntata di 2024 in diretta dalla Borsa Internazionale del Turismo. Questa è Radio 24. 2024 è il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Io sono Enrico Pagliarini, oggi con me c'è Massimo Morandi, il nostro esperto di telefonia mobile, per parlare delle novità del mercato, anche dei nuovi scenari che si stanno aprendo, stanno cambiando le cose molto velocemente. Prima però volevo segnalarvi tra le notizie più importanti della settimana quella che riguarda il nuovo fronte della gestione degli abbonamenti online. Ci spieghiamo, sapete che uno dei problemi che stanno incontrando gli editori di tutti i tipi è quello della vendita dei contenuti su internet, ammesso che riescano a vendere contenuti di qualità in un mondo abituato oramai a leggere le notizie gratis, la gestione dei pagamenti e dei micropagamenti soprattutto è un problema. Pensate quanto è facile andare in una edicola a comprare un quotidiano con poco più di un euro e quanto invece è complicato, macchinoso, pagare magari a poco più di un euro online. Bene, questa settimana i soliti, potremmo dire, Apple e Google hanno lanciato due servizi che dovrebbero aiutare gli editori, sicuramente lo faranno. La Apple ha presentato un servizio che si chiama Subscriptions, che vuol dire abbonamenti sostanzialmente, mentre Google ha lanciato One Pass, quindi un pass unico. Con il sistema di Google, un cliente che si registra al servizio può con le stesse credenziali acquistare da più editori, quindi più abbonamenti, e quindi evita di registrarsi al sito di ogni editore, quindi le cose dovrebbero essere più facili. Per tutto ciò Google chiede una commissione del 10%. Il sistema invece della Apple è invece basato sulle applicazioni, sull'App Store. Apple dice sostanzialmente: per tutto quello che viene acquistato tramite App Store o direttamente cliccando su un'applicazione dell'iPhone o dell'iPad, caro editore, io gestisco il pagamento e da te voglio il 30% di commissione. E qua sono cominciate le critiche degli editori. La International Newspaper Marketing Association sostiene che gli editori non possono affrontare investimenti in nuove tecnologie, nuovi prodotti e servizi se la piattaforma si prende una commissione del 30%. Ma c'è un altro problema: sia le autorità antitrust americane che quelle dell'Unione Europea hanno iniziato a interessarsi della cosa, perché vista la posizione della Apple nel mercato, questi vincoli che la Apple ha messo, anche perché non permetterà di comprare gli abbonamenti tramite le applicazioni se non alle stesse condizioni, insomma una cosa che può sembrare molto complicata, ma creerà sicuramente dei problemi. Per questo gli editori si sono un po' arrabbiati. Di questo sicuramente torneremo a parlare, perché è una evoluzione del mercato estremamente interessante ed estremamente importante anche per il consumatore finale, che prima o poi sarà costretto a comprare molti dei contenuti. Non so se tu, Massimo, voi avete una serie di servizi online, però non vendete nulla, tutto gratis, giusto? Al momento è tutto gratis, sì. Però c'è questo problema, perché tu in edicola vendi qualche cosa, quindi guadagni anche dalla vendita, oltre che dalla pubblicità. Online invece è solo pubblicità. Sì, online è solo pubblicità e costi, fondamentalmente. Senti, tornando alla fiera dalla quale tu sei appena tornato, da Barcellona, al Mobile World Congress, l'abbiamo detto qualche cosa della fiera, ma non abbiamo detto ancora nulla sulle novità, sulle quali poi sentiremo anche i nostri ascoltatori al nostro numero verde o agli SMS. Quali sono le principali novità? Allora, innanzitutto parliamo di non di rivoluzioni, ma di evoluzioni, come abbiamo già detto, di prodotti che avevamo già visto. È difficile condensarle in pochi minuti, però io cerco un po' di mettere in luce quelle che erano le novità più attese. La prima è quella del PlayStation Phone, quindi il Sony Ericsson Xperia Play. È stato finalmente presentato, è naturalmente uno smartphone Android che dispone di, si apre a slitta, dispone di controlli digitali e analogici, quindi sia meccanici sia virtuali, e consente naturalmente di giocare e di ospitare giochi della piattaforma PlayStation, che naturalmente saranno realizzati dalle più importanti software house proprio per questo dispositivo. È stato promesso un catalogo di 50 giochi al lancio e di 5-7 giochi integrati già nel telefono, che dovrebbe tra l'altro avere un prezzo di fascia alta attorno a 600 euro, si parla di 599. E qua si apre lo scenario che è già stato aperto dall'iPhone, di fatto, degli smartphone che diventano anche console da gioco sostanzialmente. Esatto, in effetti poi sulle esperienze precedenti anche di altre aziende Sony Ericsson ha tenuto a precisare che questo è naturalmente uno smartphone dove si giocherà molto bene, ma è comunque uno smartphone sul quale si potrà fare tutto quello che si fa sugli altri smartphone Android nella fattispecie. E questo è Android. Dunque anche i coreani taiwanesi hanno presentato un po' di cose. HTC, Allora, HTC ha presentato un'evoluzione dei telefoni che già aveva a portafoglio e un paio di telefoni che hanno sicuramente un tocco di innovazione piuttosto simpatica e giovane. Loro si chiamano Salsa e Cha-Cha, quindi già questo ti fa capire che tipo di telefoni sono. Sono telefoni social, quindi fortemente improntati ai social network, e hanno un tastino esclusivo, e quindi questo naturalmente un accordo con Facebook, un tastino con la F blu di Facebook che comanda tutte le funzioni del social network, quindi scatti una foto e automaticamente con quel tastino, senza poi dover continuare a scendere nei vari rami del software, si può mettere online la foto. Bello perché quando metti un commento e qualcuno ti risponde, il tastino lampeggia, in modo che tu puoi sempre sapere se qualcuno ti sta comunque contattando. Quindi se uno utilizza spesso Facebook, questo è il telefonino, cioè, questa è anche un'altra evoluzione, cioè l'aspetto social network dei telefonini. Molto attesi gli annunci di Samsung, perché Samsung non ha presentato solo telefoni, ma mi pare anche un tablet nuovo, giusto? Sì, ha presentato, aveva il 7 pollici, ha presentato il 10.1, un tablet molto bello, poi siamo su Android 3.0, sono spariti tutti i tasti, è particolarmente elegante, e ha presentato anche il successore del Galaxy, il Galaxy S2, è diventato ancora più sottile, meno di 9 mm, cresce, ed è questo è molto importante, in un segmento dove tutti stanno presentando Android, crescono le personalizzazioni, quindi qualsiasi azienda sta cercando di aggiungere ad Android un qualcosa che poi possa distinguere dalle altre, e infatti il futuro probabilmente, il futuro delle aziende che hanno comunque sposato Android sarà proprio queste. Ci saranno le aziende che lasceranno l'evoluzione all'evoluzione delle release di Android, e le aziende invece che cureranno in proprio l'evoluzione dei propri terminali, con la piattaforma TouchWiz ad esempio di Samsung, con la Sense di HTC, un tentativo insomma di personalizzare e fidelizzare i propri consumatori. Dunque 10 secondi per 15, dai, per Motorola, che si fa rivedere, non so qual è la novità che è stata presentata. Beh, la novità più, naturalmente un bellissimo tablet, lo Xoom, che si era visto anche al Consumer Electronics Show di Las Vegas, e poi questo Atrix, che è uno smartphone Android che ha una caratteristica fondamentale: si può inserire in una dock. Immaginate che questa dock sia come un netbook, è un case vuoto in realtà, un netbook sottilissimo con una grande tastiera, e da questo netbook si possono esplorare tutte le funzioni del telefono, però vedendolo in un grande schermo, e navigare con Firefox, quindi con un vero e proprio browser, e accedere a una sezione multimediale dove vedere video, scorrere le foto, insomma fare meglio tutto quello che si può fare su un piccolo schermo. Questo è 2024, siamo in diretta dalla BIT a Milano, potete quindi oltre che chiamarci venirci anche a trovare se siete in zona e siete diretti alla Fiera di Milano. Il nostro numero verde per parlare con noi di telefonia mobile, tra poco sentiremo i primi ascoltatori, è 824 0024, a tra poco. Numbers 2024. Numbers. Quando è stato inviato il primo SMS? Numbers. Vi abbiamo domandato nella nostra rubrica Numbers, vediamo qualche numero relativo alla tecnologia, quando è stato inviato il primo SMS, che è stato inviato da un computer ad un cellulare GSM. Il 3 dicembre 1992 c'era scritto Merry Christmas, quindi poco prima di Natale, ma il vero, potremmo definirlo il primo vero SMS da un cellulare ad un altro cellulare, è stato inviato da uno stagista della Nokia all'inizio del 1993. A quel tempo le cose erano ben diverse, oggi sono cambiate drasticamente. Saluto, ve l'ho annunciata poco fa, Carolina Milanesi, collegata con noi da Londra, responsabile della divisione mondiale sui mobile devices di Gartner. Bentornata 2024. Buon pomeriggio. Carolina, vorrei subito con te dare una dimensione di questo mercato che ha raggiunto una cifra incredibile lo scorso anno e che soprattutto, e alcuni potrebbero sorprendersi, cresce con ancora tassi incredibili, perché direbbero gli inglesi double digit, cioè a due cifre. Quanto cresce questo mercato e quanto è grande? Ma al mercato nel 2010 è arrivato a 1 miliardo e 600 milioni di pezzi venduti a livello di consumatori che usano telefonini, siamo oltre ai 4 miliardi, quindi numeri enormi, sembra proprio effettivamente che adesso siano rimasti proprio in pochi a non avere un telefonino. E come dicevi tu, le cose sono cambiate moltissimo per quanto riguarda non solo la crescita ma anche i giocatori che ci sono in questo settore. La crescita dell'anno scorso è stata del 32%, però vorrei così magari spiegare un attimino ai consumatori e agli ascoltatori che sono in linea che cosa è cambiato, perché il 32%. I nostri mercati come l'Italia, l'Inghilterra, il resto dell'Europa e il Nord America sono rimasti, sono cresciuti intorno al 13-14%, quindi una cifra un pochino più piccola, più ridimensionata, ma sono i mercati emergenti che hanno visto una crescita enorme di consumatori che sono passati dall'utilizzazione di telefonini di seconda mano a usare telefonini nuovi che vengono messi sul mercato da venditori cinesi in particolare, che hanno dei prezzi molto molto bassi, magari una qualità non perfetta, ma che sicuramente danno tutto quello che i consumatori in mercati come l'India, la Cina piuttosto che l'Africa hanno bisogno. Hai fatto bene a ricordare questo aspetto che è importante, perché soprattutto i telefoni a basso costo stanno facendo una grande concorrenza. Prima di andare in onda con Davide Ciocia, che è uno dei nostri tecnici, scherzavamo perché lui dice: io mi sono comprato dai cinesi l'iPhone, che non è scritto con la P all'inglese ma con la F, che è un telefonino che hai pagato 99 euro, giusto? Fa molte delle cose che fa. Ma del resto tu, Carolina, mi dicevi che ti hanno regalato una roba da $50 che è molto simile a un iPhone, giusto? Esatto, invece di essere scritto Imola Palermo Hotel è scritto Hotel Imola e poi scritto come iPhone, e costa $50, preso anche questo in Cina. Se lo guardi effettivamente dal punto di vista di design fai fatica a riuscire a dire la differenza tra uno e l'altro, poi ti accorgi che quello da $50 ha effettivamente ha una pennina, perché lo schermo non è touch. Esatto. Sentiamo Fabio che ci telefona da Ferrara. Fabio, benvenuto, grazie di essere con noi. Sì, ciao. Io volevo intervenire sull'accordo tra Nokia e Microsoft, di cui ancora non avete parlato, ma immagino che comunque ne avreste comunque parlato durante questa puntata, ecco. Esatto, abbiamo tenuto la cartuccia pronta, perché questo è sicuramente uno dei temi. Che cosa ci dici di questo accordo? Che è interessante. Un po' la delusione, ecco. Io ho acquistato... Il mio primo telefono è stato un Nokia, da lì ho sempre acquistato Nokia, il mio primo telefono risale al 98, ecco, da allora ho sempre acquistato Nokia, fino all'ultimo touchscreen che avevano fatto, ecco, il primo touchscreen, il 5008, da lì niente, da lì ho detto basta, perché non mi trovavo più come... Non c'era più neanche da mettere in paragone rispetto sì, sì. A per quale motivo per quale motivo ti dici mi ha deluso questo annuncio? Non mi aspettavo che facesse un accordo solo con Microsoft. Per la verità c'era il sentore, però secondo me fare un accordo adesso a febbraio senza nessuna data presunta di, o comunque una data molto avanti della commercializzazione sì, dei sì. primi terminali, secondo me è stato distruttivo per Nokia e anche per Microsoft, perché comunque ha degli accordi anche con altri produttori, sì. Ecco. Poi svelare questo accordo. Come? Prego. Svelare questo accordo a febbraio con il primo terminale magari che arriverà a fine anno o a inizio 2012 sicuramente causerà anche un blocco delle vendite. Delle vendite, esatto. Poi sentiremo anche terminali. Carolina Milanesi su questo. Sentiamo però proprio ancora su Nokia Microsoft Roberto che ci telefona invece da Torino. Ciao Roberto. Ciao, senti, ma praticamente l'ascoltatore precedente mi ha già posto già detto il quesito. Questo accordo industriale tra Nokia e Microsoft, volevo capire meglio così per i prodotti smartphone che opportunità ci sarebbero state maggiori per noi acquirenti della Nokia, però ho già sentito una certa, sì, la domanda, la domanda era chiara, però la delusione è così sulla carta, poi bisogna vedere sul mercato. Allora, visto che abbiamo con noi Carolina Milanesi, già la scorsa settimana, Carolina, abbiamo detto qualche cosa su questo accordo, immagino che a Barcellona si sia parlato molto di questo annuncio che è stato fatto contestualmente sia dalla Microsoft che da Nokia. Tu che cosa ne pensi? Ci hai già detto la scorsa settimana che di fatto questa era forse l'unica strada per entrambe le aziende. Sì, io rimango dell'avviso che questo poi alla fine era la soluzione, l'unica soluzione che sia Microsoft che Nokia avevano per riuscire da parte di Microsoft avere un venditore che effettivamente può fare un numero alto di vendite e quindi può effettivamente così proiettare la Windows Phone 7 come sistema operativo a quote di mercato interessanti, e che quindi da lì diventerebbe interessante per gli sviluppatori e quindi il beneficio del consumatore sarebbe un ecosistema molto più forte di quello che abbiamo adesso. Capisco quello che gli ascoltatori hanno detto a livello di delusione e magari anche un po' di domande sul perché annunciare adesso e non avere i device pronti. Purtroppo il mercato funziona così, nel senso che non si poteva non far diventare pubblico questa unione, e nel momento in cui l'unione diventa pubblica si incomincia a lavorare e un pochino di tempo prima, ma poi adesso effettivamente la grande spinta per far arrivare i telefonini, da quello che ho sentito io, entro la fine dell'anno. Poi a livello di proprio di vendite più grandi, di un portafoglio prodotti più importante, senz'altro nel 2012. La domanda che credo ci facciamo tutti è che cosa succede a Symbian nel frattempo, perché Nokia, avendo specificato che appunto Symbian è adesso una piattaforma che verrà accantonata una volta in cui Microsoft riesce con a livello di prezzi arrivare a un prezzo più da mass market, la domanda è che interesse ci può essere da parte degli sviluppatori piuttosto che da parte degli operatori. 150 milioni di pezzi non sono pochi. E quindi dal punto di vista dello sviluppatore c'è senz'altro ancora un interesse, e per quanto riguarda gli operatori, se è vero, come sentiamo spesso, che ci sono degli operatori mobili che stanno cominciando a diventare un attimino insicuri, un attimino incerti di quello che può essere il loro futuro con un Google che diventa sempre più importante, secondo me c'è un interesse a vendere Symbian nel frattempo, a assicurarsi che Nokia rimanga comunque con una gamma di utenti che poi riuscirà a transizionare su Windows Phone 7. Tu ti aspetti che nel prossimo anno fondamentalmente la quota di mercato di Nokia e di Microsoft scenda ulteriormente a favore soprattutto di Android, perché effettivamente questi mesi di transizione saranno, immagino, un grande problema. Sì, sono senz'altro un problema. Secondo me Nokia cercherà di rimanere competitiva non solo facendo uscire dei terminali Symbian con degli aggiornamenti a livello di user interface, ma anche con dei prezzi molto molto aggressivi, che quindi ovviamente aiuterà le quote di mercato, quantomeno a non così precipitare in maniera pericolosa, ma sicuramente avrà un effetto negativo su quello che possono essere i margini. Per quanto riguarda Microsoft, la domanda è che cosa faranno gli altri venditori, saranno continuamente interessati a questa opportunità come opportunità alternativa a Android oppure no. Da quello che ho sentito io, quantomeno HTC è andata pubblica dicendo che rimangono comunque a lavorare con Windows Phone 7, ZTE ha detto la stessa cosa. Samsung non si è così ufficialmente, non ha ufficialmente detto nulla. Comunque può darsi che l'idea che ci sia un venditore che possa attirare ancora più sviluppatori poi alla fine dia un beneficio anche agli altri venditori. Quando Carolina Milanesi dice da quello che ho sentito io, va specificato che Carolina Milanesi parla con i vertici di tutte le aziende del settore, quindi sono informazioni di primo livello. Abbiamo una pausa, però prima volevo sentire Alberto che ci chiama dalla provincia di Oristano, poi risponderemo più tardi. Alberto, buongiorno, benvenuto alla BIT nel nostro studio qui alla Fiera di Milano. Non abbiamo Alberto, allora noi facciamo una pausa e ci risentiamo tra poco. Numbers. 2024 Numbers. La maggior parte dei nuovi smartphone e dei normali telefonini venduti in tutto il mondo funziona grazie a un processore basato su architettura ARM. Quando è stata fondata questa azienda britannica che disegna alcuni dei processori tra i più efficienti dal punto di vista energetico? Numbers. Riprende 2024 nella domanda che abbiamo fatto nella nostra rubrica Numbers. Abbiamo chiesto quando è stata fondata la ARM, la società che ha costruito una fortuna su un'architettura che tutti i produttori di processori per telefonia mobile utilizzano, perché mi piace ricordare proprio che in questo campo tutti, o meglio la maggior parte dei produttori sono dei processori sono costruiti su piattaforma ARM. Questa azienda esiste dal 1990. Non so se Carolina Milanesi ha delle notizie su nuove architetture che arriveranno nel mercato, perché ho sentito che questa settimana Paul Otellini dell'Intel ha detto dovremo avere un processore per il mondo mobile nel 2012. È una verità o una mezza verità? No, Intel sta senz'altro lavorando molto per riuscire effettivamente a entrare a far parte in maniera molto più attiva di quello che è stato fino adesso nella parte smartphone e neanche nella parte tablet, quindi senz'altro c'è molto che sta succedendo sotto questo aspetto, parte del quale non è ancora pubblico, ma dovremmo avere degli annunci verso la primavera. Allora sentiamo Alberto che ci chiama dalla provincia di Oristano, che dovrebbe essere con noi in questo momento. Sì, sono con voi. Perfetto, l'ascoltiamo Alberto, ascoltiamo. Ascolti gentilmente, io sono un operante da 2 anni e naturalmente dei cellulari ho difficoltà perché la tastiera è piatta e naturalmente ho curato uno, mia figlia con la sintesi vocale, però la tastiera è piatta e ho difficoltà per esempio di fare i numeri. Non solo io, ma anche i giovani che viaggiano, che perché viaggio molto in treno, vedo che hanno difficoltà con queste tastiere piatte, no? E chiedo ai suoi ospiti, se è possibile, di parlare con qualche fabbrica di cellulari, di fare questi tipi di cellulari che hanno la tastiera rilevata, come c'erano prima i cellulari, no? Chiedo solo quello. E poi un'altra cosa, dottor Pagliarini. Quando finisce la trasmissione, se mi può chiamare, io ho un'idea da darvi per un cellulare, un'invenzione al cellulare. La chiamiamo. La chiamiamo, però le devo dare una brutta notizia, Alberto, perché noi non siamo così potenti per parlare con le aziende. Non so se Carolina Milanesi, quando incontra i vertici delle aziende in giro per il mondo, ogni tanto qualche idea gliela dà, ma vedo che c'è un mondo un po' refrattario a volte. Sì, ci sono molte idee interessanti che purtroppo però poi a livello di mercato magari non sono fattibili. Per l'esposizione che ho ricevo abbastanza email e idee che sono effettivamente interessanti, specialmente a livello di applicazioni. Per quanto riguarda però quello che diceva l'utente, è una cosa molto interessante perché ultimamente aziende come la Apple, per esempio con l'iPhone, hanno avuto molta più attenzione per persone che hanno sia difficoltà di udito che limitazioni a livello di vista, e hanno fatto delle soluzioni che aiutano in questo senso, dalla voce alla possibilità di avere lo schermo ingrandito e anche di fare l'opposto del bianco e nero verso nero e bianco, per avere quindi le lettere che rimangono più in evidenza sullo schermo. Quindi ci sono delle soluzioni che sono state fatte. Purtroppo la realtà è che la moda è quella più di touch andando avanti, quindi di tastiere ne avremo sempre meno. Per quanto riguarda le tastiere rialzate, Palm per esempio è il nuovo HP Pre, che appunto si basa su quello che era il Pre della Palm, ha i vari bottoncini rialzati, curvati in maniera che si riesce a sentire col dito lo spostamento. La stessa RIM con i BlackBerry si vanta di avere una tastiera molto facile da riconoscere, se non sbaglio. Esatto. Quello dal punto di vista del touch invece è una cosa che è interessante, che arriverà a livello di tecnologia, speriamo entro la fine di quest'anno, l'anno prossimo al più tardi, è una tecnologia che ti permette di capire permette al telefono di capire se tu stai premendo o meno su un determinato, su una determinata lettera, in maniera, quello che diceva l'ascoltatore precedente, sia in treno effettivamente con touch è un po' difficile, perché se tu sollevi il dito dalla tastiera e puoi riuscire a rimirare sulla lettera giusta è sempre un problema. Invece questa tecnologia, che si chiama Pressure Sensing Technology, che appunto ti permette di sentire la pressione che tu imponi sulla tastiera, secondo me aiuterà moltissimo a livello di precisione. A proposito di touchscreen, penso che voglia dire qualche cosa a proposito Cesare da Cremona. Buon pomeriggio, Cesare. Pronto. Effettivamente, io nell'ultimo periodo ho provato diversi cellulari con touchscreen così, ma il feedback che mi dà la tastiera alfanumerica non lo riesco a ritrovare. E poi personalmente, anche a livello di dimensioni, mi sembra che si stia un po' esagerando, cioè tastiera con il tastierino su touchscreen e tutte queste cose, secondo me si sta un po' esagerando. Però Massimo, tu che provi un sacco di telefoni, mi dicevi prima, bisogna adattarsi, sono tutti touch ormai. Ma sicuramente il passaggio dalla tastiera meccanica alla tastiera virtuale ha delle complicazioni, soprattutto per chi è sempre stato abituato a usare una tastiera old style. Devo dire che nei nuovi modelli il touch è diventato ormai sempre più raffinato, quindi funziona bene, è veloce, rapido. Certo è che è indubbio che ci saranno dei contro che i touch non riusciranno mai ad eliminare, perché una tastiera umida, una tastiera colpita dal sole è poco identificabile, spesso se si hanno appunto le mani umide oppure se si hanno i guanti, queste cose saranno ineliminabili perché sono proprio della tecnologia, però devo dire che i passi fatti in avanti sono stati notevoli. Sì. Sentiamo Paolo da Milano, buongiorno Paolo. Sì, buongiorno a tutti. Io volevo parlare della mia esperienza di utilizzo di uno smartphone in vacanza, che è stata utilissima, e magari entrando nel mondo dei delicati equilibri tra operatori telefonici e produttori di terminali. Io personalmente ho utilizzato il mio smartphone Android in vacanza molto bene, utilizzando anche per esempio l'Air di cui avete parlato. Il problema in questo caso è che quando si parla di mobilità mi sembra che si parli sempre di mobilità all'interno del territorio nazionale, laddove gli operatori hanno degli abbonamenti che consentono di navigare con un costo accettabile. In roaming all'estero questo non succede. Sì. Questo obbliga a cambiare le SIM all'interno dei telefoni, quindi diventando non reperibili sulla SIM principale, nel proprio numero principale. Sì, questo è vero. Dico che un operatore che è 3 sta facendo, non so se è un profilo, una offerta, Massimo, che ti permette di andare in qualsiasi paese dove esiste quell'operatore, certo questo è un limite, alla stessa tariffa, e mi pare di aver letto in questa settimana che l'operatore principale in Austria sta lanciando una tariffa flat che vale in roaming anche all'estero. Carolina Milanesi, questo effettivamente è un problema. Chiedo a Paolo di rimanere comunque con noi. Carolina. Sì, sono sicuramente d'accordo con quello che dice Paolo. È un problema grande. Ero a Barcellona e ho condotto un pannello con tutta praticamente la fascia, se vuoi, dell'ecosistema al momento, quindi c'erano venditori come RIM e HTC, c'era Intel e c'era Orange come operatore, poi c'era un retailer che era Best Buy, che è un retailer americano, e ho chiesto che cosa vorreste vedere per il 2012, e in 3 hanno detto dei costi di data più bassi e flat roaming. Questo è senz'altro una barriera enorme per l'utilizzazione di questi telefoni e delle applicazioni, e la cosa secondo me anche che fa più paura è per quegli utenti che Paolo se ne rende conto e capisce quali sono i costi di un roaming. Tanti utenti al giorno d'oggi ancora non se ne rendono conto, quindi io viaggio, vado, utilizzo delle applicazioni di cui non mi rendo conto, che continuano ad andare sulla rete e quindi a creare traffico, torno a casa e la mia vacanza è stata bellissima, la mia bolletta del telefono mi uccide. Corretto. Paolo, però tu penso volessi dire qualcos'altro sulla vacanza o no, o solo questo? Diciamo che volevo intervenire sul fatto che una soluzione già portata di mano, magari per un utente un po' più esperto, è l'utilizzo di un cellulare dual SIM. E sono stato profondamente deluso, avendo seguito il Mobile World Congress da Milano, tramite i blog, di vedere che nessuno dei top produttori presenti dei cellulari top di gamma dual SIM, che potrebbero in qualche modo ovviare al problema, ma non solo all'estero. Anche in Italia io ho una SIM di telefonia aziendale, mi piacerebbe poter sfruttare contemporaneamente lo smartphone per il mio numero personale. Questo è un ottimo punto, grazie Paolo di essere intervenuto. Effettivamente Massimo Morandi da 1, 2, 3 anni mi dice: guarda che dovremmo parlare delle dual SIM, che è un fenomeno interessante. Allora, il fenomeno è molto interessante, è vero quello che dice il nostro ascoltatore, che a Barcellona abbiamo visto poco o quasi niente, soprattutto se parliamo di grandi aziende. Il problema è fondamentalmente che queste grandi aziende non considerano ancora questo mercato sufficientemente profittevole per gettarsi, diciamo, anima e corpo nella produzione di dual SIM. In alcune nazioni, tra l'altro, l'ostacolo fondamentale sono stati gli operatori, che hanno sempre guardato in modo un pochino così strano il fatto che ci siano delle aziende che chiacchierano con gli operatori e poi anche con i produttori di dual SIM. Io volevo aggiungere due osservazioni a quello che diceva Carolina prima. Verissimo che all'estero i costi sono troppo alti e dobbiamo sottolineare, uno, che spesso all'estero non si possono sottoscrivere contratti per avere SIM straniere, quindi comunque non funziona neppure l'idea di comprare SIM straniere per il breve periodo di permanenza. Seconda cosa, gli smartphone di oggi sempre più servono se sono connessi alla rete e diventano quasi inefficaci se sconnessi dalla rete, certo. E questo aggrava naturalmente il problema del prezzo. Io ringrazio Carolina Milanesi per essere stata con noi. Carolina, ti lancio già un tema per una delle prossime puntate in cui speriamo di averti ospite. Non so se possa risolvere qualcuno di questi problemi che abbiamo evidenziato, cioè la SIM virtuale, cioè la SIM integrata dentro il telefono. Ah, benissimo, interessantissimo. Molto interessante. Grazie di essere stata con noi. Buon pomeriggio a Londra. Bene, io ringrazio Carolina Milanesi, è sempre un piacere averla nel nostro studio, anche se virtualmente. Grazie anche a Massimo Morandi, direttore di Cellulare Magazine e di Smartphone Magazine. Beh, oramai dovrai buttarti solo su Smartphone Magazine. Non sono ancora solo smartphone, ci sono anche i dual SIM che non sono smartphone. Esatto. Noi ci fermiamo per un minuto e riprendiamo tra poco. Beh, una giusta conclusione delle considerazioni che abbiamo fatto poco fa l'ha fatta Davide Cioccia, uno dei nostri tecnici, che diceva: tra l'altro, lo chiffon cinese di cui abbiamo parlato poco è dual SIM. Tu però, Massimo, ci puoi raccontare una cosa interessante, anche se abbiamo un minuto, a proposito di telefoni cinesi? Ma io qualche tempo fa, proprio al quartiere cinese qui a Milano, avevo acquistato un simile iPhone, naturamente dual SIM, per fare la prova, piccolino, con un software identico all'iPhone. È durato 8 giorni e poi si è spento e non si è mai più riacceso. Adesso il nostro appuntamento con National Geographic, canale 403 della piattaforma Sky. Questa settimana parliamo di elicotteri e lo spunto arriva da Elicotteri da guerra, un documentario che andrà in onda lunedì 21 alle 17:10. L'equipaggio di Skinny volerà a bordo di uno degli elicotteri più sofisticati al mondo. Una versione potenziata del famoso Black Hawk. Lo chiamiamo Pave Hawk. Il Pave Hawk è il sogno di qualunque team di soccorso aereo. Questo è il nostro verricello idraulico con 60 metri di cavo. Grazie alla sonda per il rifornimento in volo, i piloti di Pave Hawk possono volare non stop per 14 ore. Un'altra particolarità di questo gioiello sono la torretta FLIR e il radar a colori. La videocamera a infrarossi e il radar a colori permettono all'elicottero di volare giorno e notte e con ogni tempo. Inoltre è dotato di difese antimissile. È un elicottero straordinario. Ritengo che quello del soccorso aereo sia uno dei reparti più specializzati dell'aviazione. Lo è per l'addestramento, le tattiche e tutto il resto. Anche noi ci consideriamo un po' speciali. Ogni elicottero trasporta un equipaggio di 6 elementi. 2 piloti, un ingegnere di volo, un mitragliere e 2 pararescue men sul retro. I pararescue men, o PJ, si sono formati nella cosiddetta scuola per Superman. Non ci annoiamo di certo, facciamo paracadutismo, immersioni subacquee, spariamo, magari nel cuore della notte. Facciamo cose pazzesche. I PJ sono tra gli specialisti di pronto soccorso medico meglio addestrati delle forze armate americane. Saranno proprio loro i primi a scendere dall'elicottero una volta arrivati a destinazione. Poco prima che faccia buio, i due equipaggi di Skinny decollano alla ricerca della squadra di Navy SEAL, ma hanno poche informazioni su dove cercare. Di solito le missioni di soccorso aereo in guerra si svolgono al buio. Per poter vedere nell'oscurità, i piloti indossano occhiali per la visione notturna. Questi visori amplificano di 5.000 volte la luce della luna e delle stelle, proiettando l'immagine su uno schermo verde al fosforo. Questa pericolosa missione metterà a dura prova le loro capacità. Fu Leonardo da Vinci il primo a concepire una macchina in grado di reperire la portanza necessaria per mantenersi in volo grazie ad una spirale che doveva essere tenuta in moto circolare continuo, ma i disegni creati nel 1480 rimasero sulla carta. Per vedere le prime macchine volanti a rotore si deve attendere il 1907 e i due esperimenti che in Francia tra l'estate e l'autunno diedero inizio all'era dell'elicottero. Gli elicotteri volano il più possibile a ridosso dei pendii. Il debole segnale sulle frequenze di emergenza indica che qualcuno sta provando a mettersi in contatto. Oggi l'Italia rimane leader mondiale nel settore elicotteristico grazie alla tecnologia di Augusta Westland. Ma quali sono le evoluzioni di questa macchina straordinaria? Sergio Barlocchetti è un giornalista della rivista Volare ed esperto di aerei ed elicotteri. L'evoluzione dell'elicottero come macchina volante è continua, come quella di tutte le macchine create dall'uomo. In particolare però in questo settore ci si sta concentrando, diciamo, su due filoni. Il primo è quello dell'interfaccia uomo-macchina, ovvero di rendere l'elicottero più semplice e meno impegnativo da pilotare da parte dell'equipaggio, e questo si fa intervenendo sull'avionica, sui sistemi, cioè sugli strumenti di bordo eccetera, rendendoli sempre più comprensibili, sempre più semplici, cercando di integrare molte funzioni. Dall'altro lato invece si lavora molto sull'aerodinamica, perché il grande limite dell'elicottero è la velocità, che lo rende poco competitivo rispetto all'aeroplano. In questo settore, per esempio, Sikorsky sta proponendo da tempo una filosofia del compound, cioè quella di utilizzare un rotore tradizionale, diciamo, sopra la cabina, che tutti siamo facilmente abituati a immaginare, unendo invece un'elica spingente che sta in coda. Questo consentirebbe di ridurre il diametro del rotore e quindi di riuscire a far raggiungere all'elicottero velocità maggiori senza invece far accelerare troppo la rotazione delle pale, che è il vero limite fisico, perché all'estremità delle pale queste raggiungono velocità che sono prossime a quelle del suono e in quel momento, diciamo, che perdono efficienza e smettono di funzionare, per semplificare. Parlando di elicotteri che oggi sono già in commercio, di che velocità stiamo parlando e di elicotteri che arriveranno, se queste novità tecnologiche andranno in porto, che tipo di velocità verranno raggiunte? Stanno cercando di andare tutti oltre il limite dei 250 km/h e raggiungere il limite dei 400, che a spanne, diciamo, per semplificare sempre, consentirebbe all'elicottero di raggiungere distanze in tempi ragionevoli, ponendosi per esempio in competizione con altre macchine come il classico commuter, cioè i classici bimotori a turbina che si occupano, diciamo, vengono utilizzati per il traffico regionale. Mentre gli aerei sono diventati oramai negli ultimi anni macchine tra virgolette popolari, ma comunque che sono utilizzate anche a basso costo da tutte le persone che, insomma, prendono un biglietto su internet e possono volare, insomma, a pochi euro, l'elicottero rimane una macchina o specializzata per alcuni tipi di lavoro o per l'esercito oppure per i ricchi? Assolutamente, ma anche perché spesso, scherzando nel settore, si dice che l'elicottero sia il monumento della tigna umana alla gravità. È una macchina molto complessa, anche dal punto di vista del pilotaggio, volendo vedere, qualsiasi variazione su un comando influisce direttamente sugli altri due e questi tra loro non sono spesso simmetrici, mentre l'aeroplano è molto più semplificato, molto più facile da portare, diciamo, a parità di missione. Bisogna poi pensare che comunque un salto in avanti è stato fatto. Un elicottero progettato all'inizio degli anni 70 vedeva per ogni 100 minuti di manutenzione 50-60 minuti di utilizzo. Ora questo valore si è invertito, cioè è inferiore il tempo di manutenzione al tempo di volo. Si è dovuto invertire questa tendenza proprio perché l'elicottero è nato per lavorare, tant'è che gli elicotteri da divertimento tra virgolette non esistono. Esistono quelle macchine dedicate a un certo tipo, come si diceva prima, di missione, vuoi che questa sia militare, vuoi sia di salvataggio, di trasporto, eccetera. Laddove il trasporto è, VIP, cioè executive, ovvero il trasporto di persone in un modo più o meno lussuoso da un punto a un altro, eseguito con elicottero, comunque è tuttora economicamente svantaggiato rispetto all'aeroplano. Il vero vantaggio ovviamente è poter decollare e operare da piccole superfici. E su questo i costruttori si sono dati battaglia. Augusta Westland si era alleata poi con Boeing per il BA-609, che è il convertiplano, che è proprio la macchina più complessa che si possa immaginare. Come dicevo prima, Sikorsky sta studiando i compound e sta avendo anche dei buoni risultati. Chiaramente la spinta economica a questi progetti viene data dalla necessità delle macchine sul mercato. Fino a quando questa necessità non sarà alta, evidentemente la ricerca procederà a dei passi più lenti. Abbiamo terminato la puntata di oggi, saluto e ringrazio ancora una volta Massimo Morandi, direttore di Cellulare Magazine, che mi diceva non abbiamo avuto il tempo per parlare di 3D. Sì, di 3D, c'è uno smartphone di LG nuovo, sicuramente molto innovativo, che ha schermo 3D e doppia foto videocamera da 5 megapixel per riprendere in 3D. Quindi è possibile effettuare una videoripresa in 3D, collegare il telefonino con un cavo HDMI al televisore e vedere, naturalmente televisore in 3D, sottolineo, e anche schermo 3D del telefono senza occhialini, e vedere quello che si è girato in 3D su uno schermo molto grande in salotto. Bene, grazie Massimo. Naturalmente gli ascoltatori di 2024 più attenti sanno qual è la nostra opinione sul 3D senza occhialini, quindi non la stiamo a ripetere. Io ringrazio i nostri tecnici Paolo Corleoni e Roberto Scaltritti. Di Davide Cioci abbiamo già parlato ampiamente in questa puntata, perché insomma ci ha parlato di cellulari per tutto il tempo. Grazie anche a Guido Scotti e Viola Bottoni per l'assistenza. Io sono Enrico Pagliarini. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica 2024 è radio24.it. Tra circa un'ora sarà disponibile anche la versione podcast del nostro programma. Vi aspettiamo la prossima settimana, sempre alle 15.30 nel pomeriggio di Radio 24. Tra poco linea al giornale radio, poi Carlo Genta con lo sport, sempre in diretta dalla... ci siamo solo noi alla BIT, quindi io vado a fare una passeggiata. Carlo Genta dai nostri studi di via Monte Rosa a Milano. 2024.